24 mattino estate con Irene Zerbini. Buongiorno, ben ritrovati. Qui si lavora anche a Ferragosto. È il titolo di un giornale, naturalmente, ma è anche uno spunto per una discussione che avremo oggi. Non tanto e non solo sul lavoro e sull'economia, ma anche sull'abitudine tutta italiana degli italiani di chiudere in agosto completamente qualsiasi attività. Tutti naturalmente vanno in vacanza, non solo gli italiani, ma la concentrazione di chiusure nel mese agostano è una caratteristica che non si ritrova. Infatti molti di voi lo sapete bene, siete in partenza o siete di ritorno da grandi città, il turismo di città è molto praticato e non solo nei weekend, un po' in tutto il pianeta, e non vi è mai capitato né a New York né a Londra né a Parigi di trovare un problema di aperture solo perché si viaggia in un certo mese. E dunque è una buona idea o no? È qualcosa che dovremmo cambiare? Dovremmo introdurre un ciclo di vacanze scaglionate, un po' come fanno in Germania? Ne parleremo nel corso di 24 mattino estate e per i vostri messaggi 349-238-6666. Naturalmente ci interessa anche monitorare sul territorio se avete trovato dei disservizi, dei disagi, soprattutto nel caso di persone anziane, specie se si segnalano delle problematiche molto rilevanti nel mese di agosto. Potrete anche partecipare direttamente con le vostre testimonianze all'800 24 00 24. 24 mattino estate con Irene Zerbini. Carino il tuffo, dove potrebbe essere quest'anno? Forse all'Idroscalo. Sono sempre di più coloro che rimangono in città. Eppure, nonostante questo, si fa fatica a cambiare le abitudini degli italiani. Pensate che il turismo in Italia, da parte degli italiani, assorbe il 64% dei 130 miliardi del settore. Dunque si viaggia di città in città, ma ci si ostina ad andare in ferie tutti insieme in agosto. Perché si è parlato di Milano? Perché continua a detenere la maglia nera da questo punto di vista per negozi aperti, e quindi è indicativo di un fenomeno comunque nazionale. Dei residenti di Milano su 1.300.000 persone già se ne sono andate 600.000 secondo i conteggi a disposizione, ma addirittura con l'avvicinarsi del fine settimana di Ferragosto in città rimarranno solo 300.000 persone, con il rischio di enormi disagi, soprattutto per quella fascia di popolazione anziana che deve cercare un panificio aperto, una lente a contatto, un idraulico, una stampella. Sono cominciate anche le vostre segnalazioni su questo tema e addirittura un ascoltatore ci scrive da Rimini. Vivo a Rimini, una città che non va in ferie per ovvi motivi di turismo, quindi una realtà diametralmente opposta, però lavoro a Forlì e in questi giorni torno a toccare con mano i disagi di agosto. Organizzare le chiusure porta ricchezza e qualità del servizio, e poi si va pure in ferie, suggerisce in bassa stagione, spendendo di meno senza caos e stress. Continuate a raccontarci le vostre esperienze, gli sms vanno inviati al 349-238-6666. Se volete farvi sentire di persona, invece il numero di telefono è 800 24 00 24. Sono trascorsi 20 minuti dopo le 8, è il momento di incontrare coloro che ci guardano vivendo qui ma portando una cultura diversa. Quanto diversa sarà quella greca, ci siamo chiesti, e abbiamo deciso dunque di incontrare una corrispondente greca che vive in Italia da anni. Visti da fuori. Vicky Markaki, Yasu. Calimera. Qui dobbiamo imparare un po' il greco moderno, perché avrai notato anche tu che gli italiani possono discettare di Eros, Zanatos, a volte così, con questa, certo, disinvoltura. Se no, io potrei saltare dicendo Ciere, però mi sembra un po' esagerato. Perché? Cioè, cosa perché significa? È un po' pomposo, no? Ma qualche lezione di greco moderno andrebbe fatta anche in radio, così che quando ma si incontra... Ma abbiamo cercato molto come comunità greca inserire anche il greco moderno come seconda lingua nelle scuole. Un ma po' dove in Italia? Più di tanto, sì. Sì, avete fatto una lotta specifica per l'inserimento del greco moderno ma nelle scuole italiane? No, lotta no, però sono state delle proposte che in certi licei italiani, se dirò Roma sono state accolte, ma non più di tanto. È poco utile, molto divertevole, ma è poco utile. E voglio completare la tua presentazione. Hai lavorato per la televisione nazionale Star TV e poi hai lavorato per un quotidiano greco. Come si chiama? Si chiamava Messimbrini, una delle tante vittime della crisi della stampa greca. È chiuso ormai. E per Messimbrini e per Star TV, naturalmente, per 30 anni circa hai raccontato questo paese. Quali sono gli elementi che ti sorprendevano e che ti sorprendono ancora? Ma io credo che il detto una faccia a una razza, per quanto sia banale e insopportabile ormai da sentire, ha una sua radice profonda. Quindi una faccia a una razza, cioè sono molti gli elementi di contiguità, tu dici? Ma sì, sì. Tra italiani e greci. Molte volte non riuscivamo a sorprendersi a vicenda, molte volte, anzi non molte volte, sicuramente l'elemento che sorprendeva da sempre non solo la Grecia, ma credo tutta l'Europa, era il fatto che l'Italia stava continuamente in piedi, anche se stava continuamente senza governo. Per anni e anni noi cercavamo disperatamente a spiegare che sì, era caduto di nuovo il governo, ma sì, si era fatto un nuovo governo, sì, era il 90° governo Andreotti, ma questo non significava elezioni, insomma, era molto divertente cercare di spiegare la politica. Poi si è fatta la Seconda Repubblica, avevamo pensato agli inizi che ora tutto sarebbe molto più facile, elezioni, governi quasi monocolore, bipolarismo, e no, niente era di nuovo facile. Di nuovo bisognava spiegare migliaia di particolari, di sceneggiature dietro le quinte. Di nuovo era tutto molto un lavoraccio per i corrispondenti. No, cioè, dici, non è lavoraccio, devo dire la verità, è molto complicata. La complicato, ma anche stimolante. Appunto. Cioè, pensavate di avere finalmente voltato pagina, entreremo in un'era di stabilità, e poi invece tante sorprese e tanti elementi, anche il vocabolario vostro immagino si sia arricchito negli anni. Tu che hai utilizzato dei vocaboli della politica italiana che vanno dalla prima repubblica a questo secondo passaggio, avrai questo notato anche... Questo era la cosa più difficile. La traduzione. Sì, dagli anni di piombo fino al Porcelli. Io mi ricordo riunioni intere alla vecchia sede della stampa estera in via della Mercedes, riunioni intere tra tante persone di tante nazionalità cercando di non tradurre ma dare il senso, cioè chiaro. La parte divertente delle parole. Era veramente difficile tradurre il senso delle parole della politica, però non era solo la politica, a parte il fatto che almeno i greci ci occupavamo di tutto, dal calcio allo spettacolo, alla politica, alla cronaca, qualsiasi cosa, perché di solito era un corrispondente che copriva tutti i generi delle notizie. E quali altri aspetti hanno intrigato i tuoi lettori o i tuoi ascoltatori su Star TV? Tutto, io ho fatto tutto il mondiale italiano, occupandomi degli scandali degli stadi, ma anche dell'amore odio di Maradona. Credo che ho scritto dei articoli veramente appassionati e appassionanti, quella storia di come Maradona, l'idolo dei napoletani, è diventato non solo dei napoletani, pubblico numero uno il giorno della mano, il giorno dell'esclusione, così per quello più in Inghilterra che in Italia, è proprio... Ma anche in Italia all'improvviso non era più l'idolo delle masse, perché l'Italia era stata esclusa e allora anche lui non era più la persona più amata. Senti Vicky, prima di salutarti voglio riuscire a sentire un po' anche della tua esperienza personale. Tu vivi in Grecia ormai da 30 anni, hai famiglia? Sì, Io sono un matrimonio misto, come la maggioranza dei greci che vivono in Italia. Cioè, per misto cosa intendi? Sei sposata a un italiano? Sono sposata con un italiano, siamo un classico esempio di cultura greco-romana, insomma. E ci sono degli attriti in famiglia, immagino? No, il nostro problema è essere un po' più europei, perché siamo due troppo mediterranei, allora non abbiamo attriti. Cerchiamo di essere un po' più severi con il figlio greco-romano. E allora ammiriamo. Cercate di essere svizzeri. Sì, ammiriamo sempre questi genitori più svizzeri, più duri, più decisivi. Effettivamente sono due culture che assomigliano. Abbiamo da attingere tanto sia dalle radici ma anche dalla realtà. Forse questo famoso compromesso che in realtà caratterizza le culture mediterranee, se usato nella maniera giusta, che non è più compromesso, ma è comprensione e la ricetta giusta per vivere in armonia. Tolleranza, purtroppo, flessibilità. Purtroppo è diventata una parola molto antipatica, compromesso, è diventata una via di scivolare fuori dal prendere decisioni. E potrebbe invece avere anche delle caratteristiche positive. Come si dice in greco compromesso? Non è bello nemmeno in greco, è meglio katanoisi, che vuol dire appunto comprendere e non compromettere. Grazie per questa chiacchierata splendida con una rappresentante delle radici, se vogliamo, della cultura occidentale. Era la corrispondente dalla Grecia, Vicky Markaki, giornalista di Star TV, una delle televisioni nazionali elleniche, e di un quotidiano greco. L'appuntamento con i corrispondenti ritorna domani mattina alle 8:20. "24 mattino estate". Una giornata al mare, solo e con mille lire. Sono venuto a vedere questa quella gente che c'è. Il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Ma senza dubbio è encomiabile questa descrizione di questa meravigliosa esperienza della vacanza al mare fatta da Paolo Conte. Ma il grande esodo estivo che caratterizza agosto, e Ferragosto in particolare, ce l'abbiamo dietro l'angolo, crea non pochi disagi a chi rimane in città. E ormai sono sempre di più i segmenti della popolazione, dei residenti, che o per questioni economiche o per questioni di scelta, semplicemente d'abitudine, devono o scelgono di rimanere in città. Perché dunque ancorarsi a modelli che sembrano incontrastabili e molto antichi, soprattutto se osservati dagli stranieri? C'è infatti anche una certa tendenza alla critica rispetto a queste saracinesche serrate che caratterizzano le metropoli italiane, che proviene anche dai turisti, coloro che non trovano quello che stavano cercando. E passeggiando per le vie di queste metropoli, in particolare a Milano dove c'è Radio 24, succedeva anche ieri di incrociare persone che in inglese cercavano di spiegare a un interlocutore telefonico perché non si poteva trovare quella certa cosa, perché la città è shut down, ha chiuso in agosto. Per esempio, questo mi è successo ieri, di ascoltare qualcuno, penso americano dall'accento, che parlava con qualche interlocutore che faceva fatica a capire di cosa si parlasse, di questo fenomeno, e gli chiedeva: ma non stai a Milano? Sì, sono a Milano, ma è chiuso, non si trova questa o quella cosa. Sono cominciate anche le vostre segnalazioni, ci stiamo chiedendo se sarebbe il caso forse di cambiare questa abitudine. Al 349-238-6666 c'è anche chi vede in tutto ciò una nota positiva. Del grande esodo estivo vedo solo i benefici, le città sono vivibili e visitabili. Rispetto al passato i servizi essenziali sono garantiti dai centri commerciali, che sono sempre aperti, ci dice Luca. Il capo, invece, ci racconta un'altra ascoltatrice, mi obbliga da anni ad andare in ferie ad agosto. È convinto che a Roma non ci sia nessuno. Ovviamente è un dinosauro. Mentre io invece potrei fare un sacco di attività. Io lavoro nella grande distribuzione e lui non capisce che danneggia la nostra azienda facendoci chiudere. Aspetti diversi, dunque, persone che stanno in città e persone che chiedono di stare in città. Abbronzatissimo nella Barona, prendo il sole al balcone mangiando McDonald's. Scrocco cena a persone che stanno qua in zona. Vai. Spendo solo un centone campando alla Assessore del Commercio e Turismo di Milano, innanzitutto grazie per la sua presenza. Franco D'Alfonso, buongiorno. Buongiorno a voi. Era un rapper milanese che quasi la stimolava con questa abbronzatura alla Barona. A vedere se si può ripensare questa politica della città. In questo weekend a Milano rimarranno 300.000 persone. Ci saranno problemi, disagi per chi puntualmente dovrà cercare quel panettiere che non sarà aperto, quella lente a contatto che serve proprio quel giorno. Cosa avete pensato voi di questa nuova giunta per arginare questi problemi? Beh, intanto ha fatto bene a ricordare che siamo una nuova giunta e che quindi siamo lì da 30 giorni. È vero che appena sono arrivato in assessorato ho trovato una serie di persone che mi hanno detto assessore, lei è in ritardo. Io pensavo fosse l'orario, invece era su una serie di questioni, una delle quali era anche la gestione della Milano d'estate. Ma intanto diciamo che questo fenomeno è un fenomeno che sta andando avanti da qualche anno. Sì, sì, non è nuovo, questo l'abbiamo chiarito senza dubbio, però ci si chiede, assessore, anche da qualche anno in agosto gli italiani vanno a New York, vanno a Parigi, vanno a Londra, vanno a Oslo e non trovano questo fenomeno dell'esodo di massa, quindi c'è stato anche qualche anno per pensarci, insomma. Non voi come giunta di Milano, però... È una riflessione. Ricordiamoci, intanto Milano per esempio è una città complessa, sono diverse città che ci sono durante l'estate, lei sa già che durante l'anno anche abbiamo una Milano di giorno, una Milano di sera, una Milano di notte, c'è un ricambio. Credo che Milano sia una delle città nel quale il cambiamento di popolazione dal giorno alla notte sia maggiore, ci sono oltre 700.000 persone che entrano in città durante il giorno e 400.000 che escono, quindi è un ricambio. E poi ci sono quelle che fuggono nel fine settimana, quindi è un fenomeno. E poi ci sono quelle che fuggono. Beh, non quindi è bello come atto d'amore, come senso d'appartenenza verso la propria città, non è bello quando lei viaggia nelle altre metropoli del mondo, non c'è questa voglia di scappare. È una riflessione che avete fatto anche politicamente, sì. Visto che oggi la politica si deve porre anche problemi sulla vivibilità, sulla certo. Qualità della vita, cosa intendete fare per renderla prima di tutto attraente per i milanesi, cioè attraente per chi ci vive? La prima cosa che abbiamo fatto è stata proseguire nel lavoro che era già stato impostato da altri sui servizi, diciamo così, di primo impatto e di prima emergenza. Quest'anno a Milano c'è, come in molte parti d'Italia, il fenomeno dei negozi di prossimità. I negozi di prossimità, cioè i piccoli negozi, quest'anno sono molto più aperti rispetto all'anno scorso. Poi, come sempre, le sensazioni sono individuali, però le posso dire che l'anno scorso i negozi che hanno dichiarato la loro apertura erano 5.600, quest'anno sono 7.700, quindi con un incremento molto grosso. Poi evidentemente bisogna controllare, bisogna vedere che le aperture siano effettive. Certo. I servizi di prima necessità sono garantiti perché ci sono le panetterie aperte e poi c'è la grande distribuzione, quindi abbiamo lavorato soprattutto all'inizio su questi servizi, anche perché la popolazione che resta a Milano è quella molto anziana, è la fascia anziana e periferica, quindi con le poche risorse che avevamo ci siamo dedicati soprattutto prima a questa parte. Quest'anno... Assessore, rimanga con noi, sì. Abbiamo parlato di Milano perché come al solito speriamo che questo trend cambi, è la città che più si svuota d'estate, ma è un po' il simbolo di una tendenza, quella abitudine tutta italiana di sommare le vacanze in agosto. C'è chi ci segnala, è dovuto anche alla scuola. E perché alla scuola? Altrove l'esempio tedesco ritorna ricorrente e ci soffermeremo anche su quello. Anche le vacanze dei ragazzi, dei bambini soprattutto, sono scaglionate. È chiaro che organizzare l'accudimento dei bambini mentre non solo un genitore ma entrambi lavorano nelle famiglie con due genitori o nelle famiglie monogenitoriali, quella persona è al lavoro, è diventato un problema serio. Cambiano le abitudini, cambiano le situazioni familiari e ancora noi ci si arrocca in certe abitudini dal secolo precedente e anche prima. E vorremmo fare un passo in più, vorremmo capire se Milano, a parte poter assicurare i servizi essenziali o le città, potrebbe diventare, chissà perché no, una meta anche per quei turisti che invece vengono cacciati altrove. Sono direttamente i tour operator che li consigliano, perché non rimangano delusi, di andare a spendere i loro soldi, i loro pernottamenti in altre città, come denuncia l'Osservatorio di Milano, per cui ringrazio Massimo Todisco, il presidente oggi con noi. Buongiorno Massimo. Buongiorno. E dunque c'è questa tendenza a saltare il capoluogo lombardo e quindi un'occasione persa ancora una volta per una grande metropoli italiana. La sua introduzione è perfetta, io le faccio i miei complimenti, perché è come se fosse stato in agosto negli ultimi 30 anni, come ho fatto io dal 1 al 31 agosto, e conoscesse la situazione di Milano in questi giorni. Io purtroppo ho cercato di parlare con l'assessore, ma non ha mai voluto parlare con me. Vabbè, ah, qui ho l'occasione, se ha delle domande. Abbiamo qui, sì. Allora gli faremo qualche domandina. Allora, perché la situazione è veramente allarmante, ma non per colpa sua, assolutamente. Ma cos'è che l'allarma, Massimo? Allora, innanzitutto c'è questo problema. Io voglio sapere come arrivano questo dato di 7.000 negozi persi, dove arriva, voglio verificarlo. Cioè, come li conteggia, lei? Ecco, perché negli anni passati, l'assessore lo sa benissimo, purtroppo lui in agosto sarà andato via, perché di solito molti vanno via in agosto, soprattutto se ho... Sì, vabbè, non è un reato, comunque sottolineiamolo. Non so se questa esperienza di essere stato qui in agosto negli ultimi 30 anni senza dormire una notte fuori, ma tutte le notti qui. Allora, le volevo dire che l'assessore saprà meglio di me, perché da 30 giorni che lì io naturalmente non gli do nessuna responsabilità, perché ha ereditato una situazione terribile, peggiore. Milano è stata la maglia nera, spero che questo lui lo sappia, negli ultimi 30 anni gestita dalle giunte che ci sono state. Ma venga al punto, Massimo Todisco, abbiamo detto qualche domanda. Sì. Primo dato è questo: c'è sempre stata fino all'anno scorso una guida molto interessante. L'unica cosa positiva che faceva il comune, che derivava da lettere inviate a tutti i commercianti di Milano, non dalle questioni email di internet, eccetera. Perché una guida cartacea, lei dice. Una guida cartacea, esatto, che veniva messa in distribuzione gratuitamente in tutte le edicole. E come diceva lei prima, portare l'esempio del contatto, si può portare l'esempio del ricambio della bicicletta rotta, di chi sta qui e va in bicicletta, perché in agosto si può andare. Certo, ma sono mille i bisogni. Ecco, sì. Allora, su questi bisogni, non essendoci la guida, e non avendo tutti i comuni, c'è questa mania, questa follia. Cioè, era una guida in cui si riportavano tutte le aperture. Una dall'edicola, uno che aveva perso la stampella, e trovava nella guida, capiva, quello che era aperto. Quindi io sfido l'assessore, viene con me a Milano oggi, di cercare aperti questi negozi. Non parliamo del pane, parliamo di negozi di difficile reperibilità. Questa guida non è stata più fatta, non per scelta di Alfonso, ma perché hanno informatizzato questa risposta. Cioè, è online. Io non credo che siano arrivate tutte queste risposte. Voglio vederlo. Voglio accertarmi. Adesso chiederò, vorrò sapere quante risposte. Chiaro, arrivate, chiarissimo, perché... Todisco. E quindi l'accesso a una guida cartacea è più facile, soprattutto per quei segmenti della popolazione che rimangono in città. Abbiamo segnalato gli anziani, che l'accesso online. Dicevamo, Milano e non solo, per le vostre esperienze. 800 24 00 24. C'è chi suggerisce: viaggiamo in Italia, aiutiamo anche l'economia, ma non in agosto. questo perché si trovano servizi scadenti, sovraffollamento e prezzi che si impennano. E per me ai commercianti fa paura, dice invece Marco, l'idea che i clienti possano andare dai concorrenti anche solo episodicamente. Per questo preferiscono chiudere quando chiudono gli altri, anche se in vacanza spendono di più. Le vacanze andrebbero fatte a turno, ci segnala qualcun altro, e dunque è forse un problema sentito. Qualcuno vorrebbe vedere un cambiamento. Ci sono multe, ci sono delle delibere, ci sono delle azioni punitive per disincentivare la chiusura selvaggia. Ma funzionano davvero, assessore? Volevo dare alcune risposte. È vero che a Milano non c'è la guida cartacea, ma c'è la guida online. La rilevazione dei negozi è fatta puntualmente, nel senso che sono chiamate, quindi questa Todisco, come chiunque altro, può controllarla. L'elenco è passato a circa 7.000. Quest'anno, cioè, chi è che rileva? Chi va a controllare se il panettiere o la farmacia? No, sì, il comune cosa vuol dire? Un vigile? Comune, cosa vuol dire? No, sono, quest'anno lo stanno facendo i consigli di zona attraverso le loro strutture, che poi sono i vigili ed altri. Teniamo conto che si tratta di chiusura, di apertura volontaria, con l'eccezione dei panettieri. Gli unici che sono tenuti per legge sono i panettieri, che hanno una misura minima, che peraltro hanno sempre rispettato. Le farmacie no? Le farmacie. No, le farmacie hanno la loro turnistica che devono rispettare, che è controllata regolarmente. Ma direi che non è il problema del limite di legge che è il problema. Devo anche dire che quest'anno noi abbiamo poi avviato un servizio online che è lo 020202, dove i cittadini possono chiedere per trovare le risposte ai territori, e devo dire che quest'anno non abbiamo noi un'evidenza di grandi disservizi. Per ora abbiamo Ferragosto, assessore, dietro le porte, senza volere guffare, come si dice in gergo da queste parti. Vedremo come ci si comporterà. Molti hanno sottolineato, la giunta c'è da poco. 800 24 00 24 anche per le vostre segnalazioni, e soprattutto per capire se ci potrebbe essere un modello diverso. Il problema degli asili nido ce lo segnalano. Il metodo scolastico tedesco intelligente, un ascoltatore che pensa a questo problema dei genitori che lavorando non sanno in agosto dove mettere i bimbi, soprattutto quelli più piccoli, ma ci sono tante sfumature che ci segnalate. Torneremo tra pochissimo dopo aver controllato la situazione del traffico. 24 mattino estate. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Potrebbe essere scritta oggi, sì. E ritorna anche il tema degli oratori, perché poi ancora una volta ci sono fior fior di atei che mandano i figli all'oratorio non avendo soluzioni alternative. C'è chi ci segnala anche che il vero problema è quello dei servizi essenziali come ospedali e centri medici. A questo dedicheremo una puntata specifica, ci stiamo lavorando, perché non si può certo liquidare in poche parole. Buongiorno a Vitalba. Buongiorno. Buongiorno, allora, dica signora, da dove chiama? Da Roma, sì? Dove passerò tutto agosto e dove ho passato gran parte di agosto anche negli anni scorsi, quindi le parlo per esperienza diretta e da diverso tempo. Allora, io vorrei dire intanto la situazione di Roma, in cui il centro storico è aperto, quindi assolutamente ad uso e consumo dei turisti, che in questo periodo credo siano gran parte della popolazione. Sì, ma in genere questo problema che denunciamo non affligge mai i centri storici, ovviamente, men che meno Roma, esatto. Visto che la città non si vive solo in centro, visto che c'è anche chi abita nelle periferie, bisognerebbe poter organizzare, suggeriva per esempio l'Osservatorio di Milano, utilizzando questi quartieri o questi rappresentanti di quartiere, consigli di zona che costano milioni di euro e non ha nessun potere, utilizzarli per convocare i commercianti. commercianti, garantire che ogni quartiere abbia i servizi essenziali in ogni momento dell'anno. Lei cosa voleva dire su Roma? Guardi, io volevo dirle questo. Allora, premesso che il mio modello ideale è New York, così come di tante altre capitali europee e mondiali, quindi aperte non solo tutta l'estate, ma giorno e notte, 24 ore. Le abbiamo nominate, sì. Ecco, quindi premesso che questo è il mio modello ideale, io poi mi chiedo se realmente a Roma, dove comunque i romani vogliono andare in ferie, cioè ritrovarsi in questo grande rito collettivo del Ferragosto, da celebrare come si celebrano altre manifestazioni di piazza in cui comunque ci si ritrova uniti da qualcosa, in questo caso dal festeggiamento, mi chiedo se effettivamente vogliano poi avere una città efficiente mentre qui di fatto c'è pochissima gente. Grazie, grazie a Vitalba, abbiamo capito la domanda. 800 24 00 24 per i vostri interrogativi. Ci sono segnalazioni che portano ricorrentemente al modello tedesco. Il metodo scolastico tedesco è il migliore e tutela genitori, ragazzi, e permette tra l'altro di non dilapidare quel patrimonio, ci dice un ascoltatore, di conoscenze che si accumula durante l'anno e che si rischia di esaurire con 3 mesi di pausa. Allora in Germania andiamoci, grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Beda, ricorrentemente si torna a questo modello tedesco. Che succede? Come vanno in ferie questi tedeschi? Ma anche i tedeschi prendono un periodo di riposo in estate. Non è che non lo prendano. Lo prendono, tendenzialmente lo prendono più corto di quanto non avvenga in altri paesi come in Francia o in Italia. E molto probabilmente è sancito dalle scuole. Il sistema federale tedesco prevede che ciascuna regione abbia un proprio calendario scolastico. Quindi non è centralizzata la decisione? No, non è centralizzata, è tendenzialmente gli alunni delle scuole tedesche hanno in estate intorno a 5 settimane di vacanza. In alcuni casi le vacanze potrebbero cominciare a metà giugno e quindi terminare verso la fine di luglio, in altri casi, come in Baviera quest'anno, sono iniziate ai primi di agosto e termineranno a metà di settembre. Il calendario scolastico prevede in realtà periodi più lunghi di vacanza in inverno e in autunno. Per esempio molte regioni prevedono per la pausa natalizia fino a 3 settimane di vacanza. Quindi un periodo molto più lungo di quanto non avvenga in altri paesi, a cominciare dall'Italia. Voglio ricordare che per quel che riguarda i giorni di vacanze annui, in testa ci sono i francesi con una media di 37 giorni di ferie l'anno, più di 2,5 volte quello che si concede agli americani, forse anche per questo New York risulta sempre aperta. Dietro i francesi ci sono gli italiani con una media di 33 giorni, gli spagnoli con 31 e a poca distanza i tedeschi con 27 giorni. Stiamo sempre parlando di media, ci sono naturalmente differenze nel contratto e nelle regioni, come avete sentito. Ruota però la vita delle famiglie anche intorno alla sistemazione scolastica dei ragazzi e soprattutto dei bambini più piccoli. Perché Beda Romano, la Germania ha deciso questa divisione, secondo te, delle ferie molto diversa rispetto alla nostra, che avviene in blocco da giugno a settembre per quel che riguarda il calendario scolastico, con il picco in agosto? Qual è l'origine di questa? Io ho l'impressione che l'origine sia fondamentalmente climatica. Non è un caso se nei paesi mediterranei la pausa estiva sia particolarmente lunga. Il clima probabilmente induce le scuole, le famiglie, i datori di lavoro, le imprese a chiudere nei mesi più caldi dell'anno, in luglio e agosto. Probabilmente direi che c'è anche una tradizione più antica. Il mese di agosto è un mese, il mese di luglio e il mese di agosto sono mesi che probabilmente per quanto riguarda l'agricoltura sono mesi relativamente morti rispetto ad altri. Quindi ho l'impressione che le radici di questa scelta italiana siano sempre industriali, lontane, addirittura sono lontane, assolutamente. Il clima in Germania è un clima completamente diverso. l'estate è molto meno calda, molto più piovosa. Bisogna tenere presente per esempio che a Francoforte nel momento in cui la temperatura esterna raggiunge i 27 gradi le scuole possono chiudere, una cosa che non potrebbe avvenire in altri paesi molto più caldi come l'Italia o la Spagna. Interessante questo, quindi loro sanno i presidi di ogni scuola che raggiunti i 27 gradi scatta l'allarme e bisogna chiudere, l'aria è irrespirabile. Per quel che riguarda invece l'organizzazione delle famiglie, pochi sanno che in Germania c'è ancora un'aspettativa che sia la madre, la donna, a seguire, a occuparsi dei bambini nei periodi di inattività delle scuole. È così, Beda? Ma assolutamente. Lo stesso sistema scolastico, adesso sta cambiando negli ultimi anni, ma lo stesso sistema scolastico è stato per decenni legato al ruolo della madre e della donna in famiglia. Il sistema scolastico tedesco per tantissimo tempo stabiliva che si andava a scuola dalle 8 del mattino all'1 del pomeriggio e poi nel pomeriggio il ragazzo o il bambino sarebbe stato accudito dalla madre. Certo, niente dopo scuola e strutture specifiche. Grazie anche per questa testimonianza. Una domanda velocissima, Beda Romano, prima di lasciarti. Nelle città tedesche il fenomeno della mancanza di servizi o di iniziative o dello svuotamento agostano si registra? Direi di no, in generale direi di no, però voglio dire le grandi città tedesche sono più vuote in estate di quanto non lo siano durante l'anno. Grazie, grazie ancora Beda Romano, a voi. Qualche problema col microfono, è andato in vacanza anche lui, a Franco D'Alfonso, assessore al commercio e al turismo di Milano e al presidente dell'osservatorio. Ritorna 24 mattine estate, domani mattina alle 7:15. Un saluto da Irene Zerbini.